Domande, chiarimenti, considerazioni? Facili. Contestazioni? Facili, mi raccomando. Hai detto che il Cantico dei Cantici è a metà. Sì. E anche tra il Coelet e la Sapienza. Cioè, come mai? Allora, lì è finito negli scritti per una precisa scelta, chiaramente, dei maestri rabbini, perché chiaramente quando loro vanno a formare il cantico, il canone ebraico si chiude nel primo secolo dopo Cristo, si chiude circa in quell'epoca lì. Il canone è la sequenza dei libri sacri e non è casuale, cioè non è che un libro è dopo l'altro così a caso. Quindi quando loro vanno a chiuderlo, chiaramente hanno la Torah formata, cioè il Pentateuco formato, hanno i profeti formati e cosa fanno? Hanno i testi, quelli che i testi che si chiamano scritti, Ketubim, cioè testi di natura più sapienziale. Ed è per quello che va a finire lì. Ho risposto in parte. So se ho risposto in parte. No, ma perché... Cos'è che ti solletica? No, perché una volta un padre, diciamo, padre spirituale che ho frequentato per un po', che mi ha detto che il Cantico dei Cantici è tra il Coelet e il Libro della Sapienza. Però non mi ha spiegato perché. Certo. Cioè, allora, il Libro della Sapienza è canonico solo per... le chiese, cioè è solo canonico solo per la chiesa cattolica e per la chiesa ortodossa, giusto? Ma chiedo al marito, sì, perché la Sapienza è l'ultimo testo che viene scritto nell'Antico Testamento, praticamente è scritto il giorno prima che arrivi Gesù Cristo, perché lo datano qua il maestro somma Luca Mazzinghi, che ha scritto un commentario non so di quante pagine in tedesco, mille pagine in tedesco sul Libro della Sapienza, l'avrà fatto tradurre, ma sono sempre 1000 pagine. Praticamente il testo della Sapienza è scritto il giorno prima della venuta di Gesù Cristo, perché lo datano 50 o addirittura 35 avanti Cristo. Gesù Cristo è nato prima dell'anno 0, 5, 7, 6 anni prima, quindi è scritto praticamente il giorno prima. Ed è scritto però in greco, mentre nella Bibbia ebraica vanno solo i testi ebraici. Quindi il cantico, che è in ebraico, ci entra. Coelet, che è in ebraico, ci entra. Allora la domanda da farsi è: perché la Chiesa ha scelto la sequenza Coelet, cantico, sapienza? Quella domanda a cui rispondo per intuito, perché dovrei approfondirlo. Coelet, letto il libro del Coelet? Allora, ma avete mai letto il libro del Coelet? Sì. Allora, chi non ha letto va a casa e lo legge, poche pagine, mi raccomando non si scandalizzi, perché è un caustico che la metà vasta, un esperto di Coelet è Mazzinghi stesso, solo che io gli ho chiesto il libro di Giobbe, non quello di Coelet, perché è più noto il libro di Giobbe, ecco, perché il libro di Coelet è un pelino più di nicchia, ma lui ha scritto tantissimo sul libro del Coelet, e il libro del Coelet è dire che è caustico, insomma, non è dire niente, è un testo molto duro perché lui ti presenta la vita con tutte le sue contraddizioni così com'è e non tace su niente e non come si potrebbe dire, non indora nessuna pillola e non raddrizza nessuna gamba storta, se è storta storta resta. Andatelo a leggere se non lo conoscete, ed è un libro tosto, molto tosto, bellissimo, mi piace tantissimo. Piace tantissimo perché proprio ti dice esattamente la vita con tutte le sue contraddizioni e non te ne nasconde una e non indora la pillola. Poi però è il cantico che ti fa forse salire di livello. E poi è il libro della sapienza. Il libro della sapienza che, come gli altri testi sapienziali, sono dedicati alla... sapienza quotidiana. I libri, tutti quelli che il canone ebraico chiama gli Ketubim, e che la Chiesa chiama gli scritti, sono testi sapienziali, li conoscete? Proverbi, Siracide, li conoscete? Mai letti? Se andate a leggerli, sono trovati i proverbi, quelli che sembrano i proverbi che noi conosciamo. Ci sono anche testi più elevati, ma c'è la sapienza quotidiana. C'è la sapienza quotidiana e si parla poco di Dio. Cioè, del Dio di Israele, del Dio del Sinai, del Dio dell'Alleanza, si parla poco. Poco ni barra niente. Perché lì viene depositata quella che è la sapienza quotidiana di Israele, perché è quella la sapienza quotidiana dei saggi di Israele, perché viene vista, attenzione, come un'altra forma di spiritualità e di religiosità. È quello, cioè, che viene evidenziato. Cioè, non è che la religione o la spiritualità è solo quella della Torah, dei sacrifici, del Dio del Sinai, eccetera, eccetera. Ce n'è anche un'altra, che sarebbe interessantissimo andare a vedere, che è quella della maturata dall'esperienza e dalla quotidianità. Chiaramente c'è una sequenza, la sequenza implica che dal caustico del Qohelet ci si alza al giardino del Cantico dei Cantici, però dopo c'è il libro della sapienza, che media tra i due. Io la interpreto così, bisognerebbe approfondirlo. Prego. Allora, intanto grazie per questa apertura verso la sessualità, finalmente un tabù che viene, nonostante siamo bianchi, quindi non abbiamo più gli ormoni che pullulano, però grazie di questa liberazione verso la sessualità. A me è piaciuto molto, complimentoni, grazie, complimenti grazie. È troppo piccolo. Allora, il cantico corregge e reindirizza il racconto della Genesi, ma la nostra Chiara aggiunge ancora, l'uomo non allontana più Dio dalla sua intimità, nemmeno da quella sessuale. Io mi chiedo ancora, cosa ci fanno ancora i sacerdoti dopo tanti secoli con la loro castità, che vuole scegliere per carità una cosa sacra? Però mi chiedo, chi non ce la fa, che diventa poi oggetto di scandalo per interi paesi, dove si scopre che il sacerdote ha una donna, ha un amante, diventa uno scandalo per tutto il paese, che secondo me è peccato ancora più grave. E poi mi chiedo ancora, quando mai ci sono delle comunità religiose, qualcuno è andata in crisi, per mille problemi, per carità, però c'entrava anche qualche scandalo sessuale. Sono cose anche recenti ultimamente. Per cui io mi chiedo, ma allora, ma questi benedetti preti, sacerdoti, la benedetta Chiesa che è così liberante con il nostro Papa, che cosa ci fa ancora col cantico? Poi un'altra cosa devo chiedere attuale oggi, perché lei è stata veramente, ha dato tantissimi spunti. Io dico ai suoi ragazzi di fare i complimenti per la sua professoressa, perché oggi gli allievi non apprezzano. Lasciamo stare. Appunto, non apprezzano. Mi chiedo ancora un'altra cosa, ma se già il cantico ha detto queste cose così belle e liberanti, e anche nei confronti della società, che la società deve sentirsi libera dopo che ha letto il Cantico dei Cantici, mi chiedo, ma oggi, con il nostro governo che abbiamo, quanta repressione abbiamo e quanti rosari ancora devono sventolare e quante ancora Bibbie e quante ancora roccella devono nascere? Io mi chiedo, ma ha ancora senso la roccella? È un mio scandalo, per carità. Io sono solo una biblista, quindi modesta anche, quindi rispondo a questa domanda e faccio un pochetto fatica. Lascio al dibattito a pranzo, mi sa che c'è qualcuno che ne sa più di me. La cosa che mi viene da dire è che l'umanità, non solo la Chiesa, ha sempre fatto fatica a vivere la sessualità, perché ha a che fare chiaramente con delle pulsioni che non so, che possono, come si può dire, non sono razionali e che possono chiaramente portare su una strada scorretta la persona, ma possono anche, come si può dire, mettere in crisi la famiglia, mettere in crisi le tradizioni, mettere in crisi culture consolidate, mettere in crisi la società. Quindi la sessualità, in qualsiasi maniera essa venga vissuta, sia con in un rapporto di coppia, sia come castità, che è un'altra maniera di vivere la sessualità, ha bisogno di un'educazione, e quello è il problema grosso, che secondo me anche la nostra società così libera non è che affronta veramente, cioè non è che educa veramente. La sessualità va, uno, scelta, due, va rispettata, tre, va, come si può dire, indirizzata verso una strada matura, e che ha a che fare con l'identità e che cosa vuole la persona nella vita, che cosa sceglie di fare, e che va però valorizzata e indirizzata su una strada e va maturata. E mi sembra che anche la nostra società così libera questo non lo metta tanto, non l'abbia tanto, se l'ha capito non lo mette in pratica. Chiaramente la Chiesa, come tutte le società umane, l'ha repressa, perché poi è qualcosa che chiaramente nel momento in cui dopo tu sturi la bottiglia ti manda in crisi. Si manda in crisi nel senso che può rovinare la famiglia, la società, ma può anche spingerla verso una trasformazione che magari non è considerata gradita, perché capita anche quello, eh? Quindi, come tutte le società, ha avuto, la Chiesa ha avuto chiaramente il controllo della sessualità e via dicendo, e questo è una forma per mantenere il controllo, cioè minimo dubbio che questo sia una forma di controllo, ma non c'è neanche da stupirsi, perché lo facevano anche le società antiche, tanti tipi di società fanno questi lavori, non c'è da stupirsi più di tanto, perché c'è sempre quel problema che l'amore viene dal deserto e ha bisogno della società per essere guidato, perché non può essere lasciato da solo, perché anche l'amore lasciato di una coppia lasciato da solo, che due innamorati che vivono la loro folle passione d'amore, non è detto che facciano sempre le scelte migliori, eh? Quindi c'è bisogno della società, ma anche la società ha bisogno dell'amore, perché altrimenti rischia di diventare conservatrice, rischia di diventare molto rigida. Ma secondo me c'è ancora anche nella nostra società molto libera, c'è ancora del bel cammino da fare. Sessualità implica chiaramente una visione però a 360 gradi della persona, perché anche la castità è una forma di vivere la sessualità, chiaramente se viene scelta, cioè esiste in tante tradizioni religiose, e chiaramente se viene scelta consapevolmente. Ma viene scelta consapevolmente, per anche lì è sempre una questione di amore, cioè per chi sono casto, per rispetto a me stesso senza dubbio, ma anche per quale motivo, perché scelgo di non dedicarmi ad una persona, ma scelgo, non so, di dedicarmi a Dio, ma è una scelta che io faccio. Ma non significa che una persona, se si dedica a Dio e non vive la sessualità con una persona, non significa che non la viva. Non vivrà l'atto sessuale, ma non significa che la sessualità non sia implicata. Attenzione, perché la sessualità non è solo il fatto di implicata solo nell'atto sessuale, è implicata a 360 gradi nell'orizzonte di una persona, in qualsiasi cosa che facciamo. Mi sembra che Pietro aveva una suocera. Sì, certo. Mi sembra che sino all'anno 1000 sì. Si sono sposati. Certo. Ecco, allora saranno comportati non tanto bene. E allora hanno chiuso, e forse Paolo ha detto che chi vuole essere vescovo deve essersi sposato una sola volta, essersi comportato bene. Certo. Ecco. E allora mille anni sì erano sposati, e gli altri mille, quanti altri millenni devono passare ancora? Sì, non c'è dubbio. Prima che ci sia un'apertura. Oramai anche le signore, le signorine sì. fanno teologia, ci sono tanti teologi, ci sono tanti preti che si sono sposati e la Chiesa li ha cacciati. Sì. Il Papa che abbiamo oggi, quelle cose lì le vorrebbe, è solo purtroppo che ci sono tanti marpioni che comandano un po' la vita. Fai un altro. Vai. Rispetto a un'affermazione del libro, non ho scritto nulla e me ne dispiaccio, ma rispetto a un'affermazione dell'inizio che diceva di non trasporre le nostre idee sugli scritti, e questo va bene perché in effetti questo scritto è rivoluzionario rispetto certo. a alcune idee e ci spinge piuttosto in avanti. Però questa è sempre la solita storia che mi spinge a questa domanda: ma la Bibbia è stata scritta fino a un certo punto, ma la Bibbia oggi chi la scrive? In che senso chi la scrive? Ma nel senso che tutto questo trasporto per dei testi religiosi che che hanno portato ai libri che oggi noi consideriamo canonici e inseriamo nella Bibbia. Cioè oggi questo scritto su Dio, chi lo sta scrivendo? Noi. Però come appare? Cioè come... Come appare? Pare poco, siamo noi che la dobbiamo scrivere. Allora, chiaramente la Bibbia ha in sé, vediamo se riesco a rispondere, la Bibbia implica una fatica per conoscerla, questo non c'è minimo dubbio, implica una fatica per conoscerla. E questo è... secondo me ciò che nella Chiesa si è fatto per un po', perché c'è stato un risveglio biblico dopo il concilio, giusto Marito, ho detto giusto? C'è stato, anche prima, ma anche a livello più di massa dopo il concilio, c'è stato un enorme risveglio biblico, perché sapete che nella Chiesa cattolica per secoli la Bibbia non è stata messa in mano ai laici perché è ritenuta pericolosa, e anche preti e suore potevano leggerne solo delle parti, non tutto, ad essere precisi. Quindi c'è stato un enorme risveglio biblico dopo il concilio, che è andato avanti, io me lo ricordo quando ero giovane, me lo ricordo. Dopo, negli ultimi anni, mi sembra che ci siamo un po' fermati, o sbaglio? Negli ultimi 15 anni, facciamo una cosa così, 10-15 anni, mi pare che ci siamo fermati un pochino. La Bibbia implica purtroppo un po' di fatica. Perché? Perché bisogna, come si può dire, questo mi sta molto a cuore, bisogna colmare il gap culturale che c'è tra noi e la Bibbia. Altrimenti il problema è che noi andiamo a farle dire quello che non c'è scritto, o andiamo a leggere ciò che non c'è. Quello è un grossissimo problema. Okay. Quindi il primo problema, secondo me, è colmare questo gap, ma non a livello di studiosi, a livello proprio di cristiani che sono interessati, che vengono in parrocchia, che non vengono perché non gli piacciono le parrocchie, eccetera eccetera eccetera, perché l'ISRA dice ma c'è la possibilità di iscriversi a questi corsi come uditori, proprio per colmare il gap che c'è, lo spazio che c'è tra noi e la Bibbia, tra noi e la teologia, ma anche non solo con la Bibbia ma anche con la teologia, perché ciò che è la teologia in sé è molto molto molto molto molto molto, molto lontano da quello che la maggior parte di noi è stata formata nei suoi anni giovanili. Cioè, non c'ha niente a che fare con il buonissimo catechismo e la buonissima dottrina che noi abbiamo ricevuto. Andava bene per quando eravamo bambini, per quando eravamo, insomma, un po' più grandicelli. Dopodiché bisognerebbe fare un salto in avanti, perché c'è un enorme patrimonio che è fatto anche di discussioni, punti di vista, orizzonti diversi, che fa parte della teologia, che fa parte della Bibbia. Il riscrivere la Bibbia lo possiamo fare, lo fa ognuno di noi nella scrittura della Bibbia, ognuno di noi nella sua vita lo fa. Certo che però bisogna, come si diceva il testo iniziale che abbiamo letto, bisogna andare a bere quella fonte e pazientare, perseverare continuamente senza stancarsi a bere quella fonte. E non sempre, come si può dire, la fonte è così a portata di mano. Cioè ci sono occasioni e possibilità proprio preta a te, cioè alla mano, di conoscere la Bibbia. Ho risposto in qualche maniera, ho capito la domanda, può aggiungere altro, è liberissimo. No, cioè, no, no, Tutto vero per quanto riguarda l'indagine e la conoscenza biblica. Sì. Mi sto domandando, certo, i teologi stanno producendo, ma tutta questa, cioè stanno producendo, ma si può considerare quello che loro producono nuova Bibbia? O quale sarà la Bibbia che continua? Cioè, anche quello che lei ha detto, si continua in questa ricerca e Dio è con noi in questa ricerca, sì. Ma dov'è che vediamo concretamente l'esito di questa ricerca? Mentre abbiamo una cosa consolidata che chiamiamo Bibbia, qual è il consolidato di oggi? Oh, non, io non lo vedo perché tanto la Bibbia non è consolidata, eh. Cioè certo, c'è il canone, inizia con la Genesi e finisce con l'Apocalisse, quello è ok, siamo d'accordo, ma ciò che essa genera è destinato ad andare avanti nei secoli. Qua c'è come ogni bel libro, ogni bel romanzo scritto bene genera interpretazioni continue, molto di più vale per il testo sacro. È vero che è consolidata perché comincia con in principio e finisce con l'ultima pagina dell'Apocalisse, le pagine sono quelle, siamo d'accordo, ma l'interpretazione è destinata ad andare avanti per secoli. Perché continua, ogni persona che la legge, e la legge con un po' di testa, la rigenera continuamente. E interpretandola e cercando di viverla nella propria vita, è come se la producesse ancora di più. Le contesto una cosa, non è che è vero che i biblisti, i teologi fanno teologia, producono libri, producono interpretazioni, scrivono, eccetera, eccetera, eccetera. Ma a me viene di dire che ognuno di noi è chiamato a quello. Chiaramente lei non deve scrivere un libro di teologia, perché se lo vuole lo può fare, se le fa piacere, però se non le fa piacere, cioè, non è che magari sia un suo obiettivo, ma ognuno di noi è chiamato a farla, a leggere il testo biblico con consapevolezza, a leggere qualche testo teologico e a cercare di tirare fuori la propria teologia. Chiaramente senza camparla in aria, ma con qualche fondamento. Ma ognuno di noi è chiamato a questo percorso, mi viene da dire. Non è che l'interpretazione biblica, teologica, è per una parte... Per questo quello che ha fatto la Chiesa per secoli. L'interpretazione della Bibbia era demandata alla Chiesa e ai presbiteri. Morale della favola, se non eri prete, non potevi studiare Bibbia, ok? O accedere ai vari corsi. Adesso, cosa succede? Che io mi ricordo, 20 anni fa, prima di conoscere anche mio marito, quando era 20 anni fa, 15, cioè quasi 20, tra i 15 e i 20 fa, io venivo a Mondovì a fare delle lezioni, una settimana, lezioni per la conoscenza biblica, molto semplice, mi chiamava il parroco e facevo lezione la mattina, pomeriggio e la sera. Dopo 5 giorni ero distrutta. Vabbè, questo era un altro problema. Io mi ricordo le facce della gente quando mi vedeva arrivare. All'epoca ero biondissima. Ero bionda, ok? Quei capelli qua, biondissima. Io mi ricordo le facce della gente. Si mettevano anche a ridere perché mi squadravano da capo a piedi. Ero anche più giovane. Più biondissima. L'effetto che facevo. Perché non erano abituati a vedere una donna che spiegava la Bibbia, si mettevano a farsi due risate, ma risate simpatiche, perché era anche gente con la testa, ridevano e sghignazzavano che la metà basta. Perché? Perché noi abbiamo l'idea che la teologia e la Bibbia sia di alcuni esperti. Sì, è vero perché bisogna studiarla, bisogna sapere tante cose, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è anche un altro livello nel quale la Bibbia e la teologia dovrebbero essere un pochino, o accessibili un pochino a tutti, almeno qualcosa. E ognuno è portato a farla, a dire la sua. Perché non è mica detto che l'idea geniale sull'interpretazione del cantico ce l'abbia io e non ce l'abbia lei. Cioè, non è mica detto. Non so chi so spiegare. Andrea, sei d'accordo? No, sei in crisi. Inquieto. Mi sembra che la domanda che hai fatto tu vedi che risponde meglio lui. Di estrema importanza. C'è il nostro amico Don Giorgio che ci diceva sempre: dopo aver letto i 4 Vangeli, sappiate che dovete scrivere voi il quinto. Il quinto lo dobbiamo scrivere noi. Il senso di queste iniziative che facciamo qui e che vorremmo è proprio quello di capire che parole usare oggi per poter fare in modo che il messaggio evangelico continui ad essere attraente e umanizzante, utile per la vita. E questo lo dobbiamo fare noi, con l'aiuto loro. Noi in questi anni, tutte le volte che abbiamo cercato delle persone esperte, abbiamo chiesto di aiutarci, mai una volta che ci abbiano detto di no. Ma non solo persone che abitano come Chiara qui nelle vicinanze, come Sonia Ristorto del mese scorso a Cervasca o Repoli di Torino, ma persone che abitano a Roma, che abitano a Milano, cioè persone che insegnano alla Gregoriana addirittura. Abbiamo notato questa disponibilità da parte loro di mettersi a servizio nostro per poterci aiutare a fare quello che dici tu, in qualche modo, no? Però questo comporta, è quello che diceva Sant'Efrem e anche quello che diceva Teresa Forcades. Poi ti chiederei come conclusione di riproiettare questa bella pagina di Teresa Forcades, che è veramente molto, molto, molto interessante. Quindi è un'avventura che abbiamo iniziato, che abbiamo intenzione di continuare e che secondo me oggi è molto importante che si faccia, purtroppo non in tutte le realtà ecclesiali, parrocchiali, si fa. La nostra piccola esperienza è quella di dare la possibilità soprattutto alle persone che avvertono il desiderio di porsi degli interrogativi, no? Di trovare delle risposte convincenti. E le risposte convincenti le trovi nella misura in cui dialoghi con chi è più esperto e non sei sempre solo lì ad accettare quello che arriva dall'alto e che non si può discutere. Per quanto riguarda il discorso del Cantico dei Cantici, sono 177 versetti, non so quante ore ci si piega a leggerlo, ma credo pochissimo. Come? Poco. Io mi ritrovo molto, oltre che delle cose che ha detto Chiara stamattina, in un'affermazione molto famosa che ha fatto Dietrich Bonhoeffer nel suo libro Resistenza e Resa, questo pastore protestante, sapete tutti chi è, che è stato incarcerato e poi impiccato da Hitler perché aveva fatto un'azione contro Hitler. Ha scritto Resistenza e Resa e del Cantico dei Cantici dice così. Io questa affermazione la faccio mia al 100%. Nella Bibbia c'è il Cantico dei Cantici e non si può veramente pensare amore più caldo, sensuale, ardente di quello di cui esso parla. È davvero un bene che faccia parte della Bibbia, come contrasto per tutti coloro per i quali lo specifico cristiano consisterebbe nella moderazione delle passioni. Dove mai esiste una tale moderazione nell'Antico Testamento? Ecco, a me piace molto il Cantico dei Cantici perché attraverso l'amore tra un uomo e una donna, passionale, profondo, reciproco, mi fa capire che cos'è, chi è questa entità che chiamiamo Dio, insomma, no? Se posso aggiungere una cosa, a me colpisce molto, ha sempre colpito molto, e trovo che l'espressione più corretta quando un prete si definisce io sono innamorato di Dio. Sì, giusto, è corretto, è anche giustissimo, grazie. È quello che volevo dire prima, è proprio frase correttissima. Questo è il libro di Teresa Forcades, okay. C'è un altro libro, adesso ve lo cerco qua, no, lascio qua. C'è un altro libro, cioè adesso mi viene in mente che ce n'è uno su Coelet e il Cantico. Vedete che poi alla volta l'ho comprato, ma confesso non sono riuscita a guardarlo perché purtroppo troppe cose insieme. Questo l'avete preso? Sì. Ma metti accetto i cookie perché non si vede. Non volevo fare pubblicità ad Anna, a Feltrinelli, perdonate, ma insomma, viene fuori così. Insomma, siamo in amicizia. Poi ce n'era un altro che ho leggiucchiato. Oh. Non me li sono portati, eccolo qua. È un libretto, eh. Questo è un libretto. Sono degli esercizi che lui ha fatto. Sapete chi è? Sì. Christian de Chargé. Sì. Uno dei monaci di Tiberin. Era l'abate. Ah, sì? Sì, sì, lui è l'abate. Era l'abate. Lui ha fatto questo libretto, l'ho leggiucchiato, letteralmente leggiucchiato, che sono delle meditazioni in un dei corsi di esercizi che ha fatto, e cita anche l'Apocalisse dentro. Ci sono anche testi dell'Apocalisse. Ma il libretto, niente di che, ed è molto interessante anche questo. Poi, per la signora, posso andare avanti? Allora, lettura estiva, suggerita dal marito, ma che uno l'ho letto. Allora, questo è Gerd Thyssen. Questo è un biblista famosissimo, che però, che ha fatto? Ha scritto dei tomi, occhio, ha scritto dei tomi. Allora, i tomi non ve li consiglio, no, perché me lo fai qua. Ha scritto dei tomi. Apri i libri, poi va su. Eh sì, apro questo. Ha scritto dei tomi che non vi consiglio. Vedete dei tomi. Allora, ha scritto anche dei romanzi. Cioè, è un biblista che a un certo punto ha cominciato a scrivere dei romanzi. Questo è L'ombra del Nazareno, è la mia lettura estiva, ma ce n'è anche uno su Paolo. Quello su Paolo è carino, io l'ho letto. Fai la foto? Scegliete i romanzi, mi raccomando, gli altri sono dei tomi, sono proprio tomi, tomi. E poi c'è quello su Paolo, vediamo se salta fuori. Non me lo fa saltare fuori. Eccolo qua, L'avvocato di Paolo. Questo è carino, questo l'ho letto. Quindi è un biblista serio che ha studiato la cultura dell'epoca, eccetera, eccetera, eccetera, che scrive dei romanzi. E si può facilmente, sono leggibilissimi. Invece per Andrea, ho anche la lettura per Andrea. Lui ha già letto tutto. No, no, me ne manca una. Adesso vediamo. Ti becchi questo, che è quello da cui ho tratto alcune considerazioni. Ti becchi Gianni Barbiero. Eccolo qua. Allora, ti becchi Gianni Barbiero. Allora, questo, quello sotto in grigio, quello è grosso così, quello è il commentario al Cantico, ma è un testo scientifico, e lì ti riporta addirittura tutte le i disegni degli amuleti egiziani, dove c'erano la colomba, i fiori di loto e via dicendo. È uno studio storico molto serio, e poi ha fatto invece il libretto verde, che è molto più semplice. Questo è Gianni Barbiero, ok? Questo, quello grigio è durissimo, ma si vede anche dal prezzo, è un commentario vero e proprio, e lì ci sono proprio addirittura dentro tutte le immagini dei simboli della cultura egizia che sono che dopo ricorrono nel Cantico, la colomba, il cerbiatto che salta, eccetera, eccetera, eccetera. E poi l'altro invece più semplice. Mi fermo qua perché c'è Andrea che sta guardando l'orologio. Sì, direi, no? Ci offrite un altro? Sì. Cioè, poi così iniziamo la celebrazione. Abbiamo trovato un canto sull'amore di Dio. Ok. Ma in una versione diversa. No, sull'amore di Dio sotto ogni cosa. Sembrerebbe un canto ecologista. Okay. No? Ma sotto la natura. Concerto d'armonia, in terra canta dei colori della natura, nella natura, terra canta nei colori della natura, canta nella natura. Il giorno cede, passa la notte, per amore. La notte saluta il giorno per amore. Dal mare sale l'acqua al cielo per amore. E l'acqua discende dal cielo al mare per amore. La pianta dà le foglie alla terra. La terra ridona le foglie per amore, un seme cade in terra e muore per amore, la vita germoglia dal solco della morte per amore. Concerto d'armonia e terra canta nei colori della natura, canta nella natura e terra canta nei colori della natura, canta nella natura.